siamo qui a domenica prossima, come ogni domenica. Dirò questo annuncio velocissimamente: ci siamo dimenticati di registrare il podcast, quindi ripeterò velocemente tutto quello che abbiamo detto prima. Perché abbiamo già trasmesso 10 minuti, ma c'eravamo dimenticati di registrare, quindi una breve introduzione di nuovo, scusate. Sì, avremo ospiti Cosimo, rappresentante del FOA Boccaccio, per quanto riguarda i fatti che sono successi a Cremona qualche giorno fa, e Ciccio Villari, per rappresentante di Limitazione. Li avremo tutti e due su Skype. Abbiamo anche degli ospiti in carne ed ossa, sono Matteino, Matteaccio, Matteuccio. Devo dire ciao. Devi dire esattamente le stesse cose che hai detto prima, perché ci siamo dimenticati di registrare. Devo fare così con la mano, ecco, allora. Fai così con la mano. Forse abbiamo ristabilito il collegamento con Cosimo, che si è svegliato dal suo torpore, quindi sicuramente riusciremo a fare il collegamento. Esatto. Nell'attesa di sentire Cosimo, io mando un pezzo. Ho scelto un pezzo a testa da dedicare, e il primo pezzo che passiamo è Me son cartato. Meno male che l'avevi preparato. Sì, vabbè, ho una playlist sconfinata davanti a me. Va bene, per Davide che se n'è appena andato. No, vabbè, glielo dedichiamo dopo. Dedichiamo a Matteo, mentre fa ciao ciao con la mano. All Tomorrow's Parties dei Velvet Underground. E cerchiamo di ristabilire il collegamento con Cosimo. E ci sentiamo dopo. Ciao. A dopo. Send my cards to share the poor girl where to all tomorrow's parties for Thursday's child this Sunday's clown for whom none will go more. Blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. Era All Tomorrow's Parties dei Velvet Underground, era dedicata a Matteo che ha detto ma perché dedicata a me? Perché ricordiamo una sua affermazione una volta, stavamo parlando di Lou Reed. Eravamo in macchina della mitica Micra bianca. La Micra bianca di Gigi, che mi sembra che abbiamo sentito domenica scorsa. Esatto. E vabbè, eravamo un poco così fine serata, stanchi. Già avevamo i postumi e vabbè. Hanno messo Lou Reed, ho fatto ma chi è questo? E mi fanno, ma come chi è? Lou Reed. Faccio Lou Reed. E chi cazzo è Lou Reed? E da lì è partito l'amore di Matteo verso Lou Reed, soprattutto per il disco che hanno fatto con i Metallica. Tu sei un grande fan. Quella porcata abissale. Chi sono i Metallica? E chi cazzo sono i Metallica? È veramente un disco orribile che non vi consigliamo assolutamente. Ti ricordi Metallica? No, invece abbiamo... Non si sa se abbiamo ripristinato il collegamento con Monza e con Cosimo. Sembra di sì, ma nel frattempo possiamo parlare di quello che è accaduto qualche giorno fa a Cremona, perché è proprio per questo che stiamo sentendo Cosimo. È stato ad una manifestazione lì a Monza in Boccaccio a proposito di questo... No, la manifestazione è stata a Cremona ed è stata ieri, era una manifestazione nazionale antifascista per i fatti che sono successi esattamente domenica scorsa, una settimana fa, ricordiamolo. C'è stato un attacco fascista fatto praticamente da Casa Pound. Casa Pau, nota organizzazione fascista italiana che ha attaccato i militanti di un centro sociale, il CSA Dordoni a Cremona. C'è stata una colluttazione nella quale un compagno è finito in coma per una sprangata sulla testa. Si chiama Emilio, a cui noi rivolgiamo tutta la nostra solidarietà. In questo momento è in terapia intensiva. Insomma, a seguito di questo fatto è stata indetta una manifestazione nazionale che si è svolta ieri. Se avete seguito i telegiornali sicuramente ne avete sentito parlare. Anche la Santanchè ha detto che vuole sposare la causa di Emilio, il suo brand, vuole prenderlo, la passionaria, lo vuole adottare. A parte questo, avremo, come ho già detto, Ciccio Villari per l'imitazione. Avevamo già accennato nelle precedenti puntate che cos'era questo collettivo, ne parleremo con lui. Si stanno, diciamo, creando alcune cose molto interessanti, soprattutto l'obiettivo di organizzare un festival appunto a Reggio Calabria nel periodo estivo, ma non solo, ne parleremo poi con lui più tardi. Nel frattempo prendiamo un po' di tempo perché ancora non si capisce se siamo collegati con Cosimo o meno. Ma ci stiamo lavorando. I nostri tecnici lavorano nell'ombra. E dedichiamo un altro pezzo. Pezzo dedico a Daviduccio. Daviduccio bello. Sono i Motor Psycho. Questa è Kill Someday. E ci sentiamo dopo. I'm Allora, siamo in collegamento con Cosimo, un militante del FOA Boccaccio. Ciao Cosimo, sei in linea? Sì, ciao a tutti, sono in linea. Ciao, e allora siamo qui per parlare insieme di questi tristi fatti che sono successi a Cremona la settimana scorsa. E sappiamo che tu sei stato alla manifestazione nazionale antifascista che c'è stata ieri proprio lì a Cremona. Sì, sì, io sono stato lì insieme a tutte le realtà della Lombardia, ma anche c'erano pullman e treni che arrivavano dalla Liguria, dalla Toscana, dall'Emilia, anche qualcuno da Roma. Sono visti un po' di compagni da tutta Italia e l'aria che si respirava era davvero intensa e tutte le facce erano abbastanza tirate e ben determinate. Il corteo d'altronde è stato presentato da subito come un corteo che voleva autodeterminarsi, essere compatto dietro le parole d'ordine che erano quelle dello striscione d'apertura, che era appunto chiudere i covi nazifascisti e sì, in solidarietà con Emilio. Quindi il corteo è partito più o meno alle 4 di pomeriggio e c'era davvero tanta gente. Secondo noi più o meno eravamo circa in 7.000 all'inizio, però con anche i sindacati, i partiti, sì, quindi ha trovato una partecipazione più larga rispetto ai soli centri sociali, no? Sì, la manifestazione è stata da subito molto sentita anche da quella che possiamo definire come la sinistra o presunta tale italiana, con i vari partitini che giocano un po' a rincorrersi per farsi un po' di pubblicità e di campagna elettorale sempre, perché magari non sanno di raggiungere, se raggiungeranno mai il 4%, il 6% per poter prendere un seggio. Vabbè. E quindi si buttano dentro, però loro si sono defilati subito perché il corteo, come ti dicevo, era determinato, deciso ad assaltare la sede di Casa Pound Cremona, che si trova in via della Girandaia, se non sbaglio, ed è a circa 2 chilometri soltanto, neanche dal centro sociale d'Ordoni. Dove appunto qualche giorno fa, come ben saprete, una settimana fa. Sì, facci un riepilogo di quello che è successo. Se magari conosci qualche dettaglio in più, diccelo. Vabbè, praticamente è successo che il Dordoni, che è questo spazio sociale autogestito di Cremona, si trova molto vicino allo stadio. Il piazzale antistante il Dordoni è proprio uno dei piazzali predisposti al parcheggio delle auto dei tifosi che arrivano da fuori. Quindi spesso lì succede che i compagni di domenica presidiano un minimo lo spazio, giusto per non avere sorprese. E invece questa domenica, domenica scorsa, qualcuno di ben noto, perché le facce sono state riconosciute subito, c'era Casa Pound. Le facce sono sempre quelle. Come? Le solite facce, i soliti topi di fogna. le solite merde erano lì a Cremona, probabilmente perché c'era anche il derby Cremonese-Mantova, quindi la tifoseria del Mantova è gemellata anche con quella del Brescia, perciò ci sono state un po' di situazioni congiunte che hanno fatto sì che ste merde riuscissero a raccattare 50 topi di fogna, 60 anche, insomma un numero abbastanza nutrito. Che prima della partita già aveva battibeccato con un po' di compagni anche allo stadio e cose così, e dopo si sono organizzati proprio perché probabilmente frustrati dal fatto di non poter riuscire più a fare niente dentro gli stadi, allora hanno pensato di fare questo assalto. Sì. Ti ha lasciato, Emilio a terra ferito alla testa. Durante questo assalto Emilio, che è un compagno anche abbastanza di 49 anni, un signore abbastanza anche tranquillo, è stato colpito da una botta di vanga, cioè con un badile è stato colpito da dietro. Lui è svenuto, una volta svenuto mentre era lì a terra è stato ripetutamente colpito alla testa, alla pancia, da calci, bastonate. Madonna. E i compagni che si sono ritrovati ora erano in 8, 10 così, hanno avuto la prontezza di afferrare alcuni estintori che stavano dentro lo spazio e riuscire a farsi largo con questi estintori per toglierlo dalla furia di queste bestie che non conoscono confini. Purtroppo in Italia, cioè, non conoscono il confine tra una rissa e cercare di ammazzare una persona. E questa è una delle cose che più ci fa pensare a noi come collettivi di tutta la Lombardia, che ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo visto di nuovo mettere la testa fuori da parte di tutte queste associazioni della destra, razziste e fasciste. Anche qualche l'anno scorso c'era stato un tentativo di accoltellamento dentro la metropolitana di un compagno di Milano, che si chiama Ste, però lui ha la pelle molto dura e quindi il coltello fortunatamente non ha fatto danni. Però negli ultimi periodi ci si sta un po' preoccupando di questa deriva così violenta da parte loro e si è deciso di dimostrare che non facciamo un passo indietro. Il corteo di ieri ha vissuto momenti davvero intensi. Sì, posso immaginare che fosse un momento di intensa emozionalità. Sì, oltretutto questo si respirava dall'inizio, proprio lo si leggeva negli occhi di chi stava davanti, della famiglia di Emilio, che anche se aveva fatto un appello magari a non usare la violenza in un determinato modo, però ha capito da subito perché si è deciso di rispondere in questo modo. Perché si voleva dare un segnale forte che queste cose non possono essere ammesse, che gli spazi sociali vanno di noi, ce li difendiamo e non aspettiamo la giustizia, che peraltro ha indagato oltre a 4 merde fasciste, ha indagato anche altri 4 compagni del Dordoni per una rissa aggravata. Sì, infatti so che sono stati denunciati i compagni del Dordoni e non i fascisti. No, sono stati denunciati 4 compagni e 4 fasci. Ah, ecco. Sì. No, c'è stata una denuncia, diciamo, proprio per cercare di fare così come si è fatto quando c'è stata l'uccisione di Dacco. Cioè far cercare di passare la roba come una rissa tra bande rivali e non come un vile attentato, aggressione fascista, di stampo fascista, squadrista, proprio sì, organizzato nei minimi dettagli. Sì, sì. Perché loro sapevano che i compagni non sarebbero mai usciti dallo spazio vedendo 50-60 fasci, quindi cosa hanno fatto? Hanno aspettato nascosti e hanno mandato un piccolo gruppo avanti. Quando i compagni hanno visto che erano in pochi, sono usciti dallo spazio per cercare di cazzarli, e loro sono arrivati da dietro, erano nascosti, sono arrivati di tutta furia e hanno causato questo ferimento gravissimo, perché comunque Emilio è vero, si sta riprendendo. Però è stato in coma. Gli auguriamo di riprendersi completamente al più presto, ovviamente. Sì, ovviamente il nostro pensiero è prima di tutto a lui e speriamo che ce la possa fare a tirarsi su, perché davvero noi lo rivogliamo a fianco a noi nelle lotte, anche perché era un compagno che si vedeva spesso, molto conosciuto all'interno del Dordoni e all'interno della realtà anche lombarda. Sì, sì, credo che sia quasi superfluo dirlo, però cioè, questo tipo di aggressioni durano da anni, sono ripetute in continuazione, sarebbe l'ora di chiudere veramente una volta per tutte e mettere al bando questa organizzazione fascista. Sì, sarebbe ora, ma diciamo che l'unico modo possibile che io vedo è quello di farlo da soli, cioè non possiamo aspettare né la magistratura né la polizia ovviamente, ma soltanto con la nostra determinazione e con le nostre scelte possiamo cercare di poter fermare questa deriva. Magari è difficile poterlo fare una volta per sempre, però bisogna sempre stare allerta, in guardia. Io ricordo quanto è stato un anno fa, forse un anno e mezzo fa, a Reggio, al comune, è stata ricevuta appunto Casa Pound con alcuni esponenti. Cioè proprio. Noti esponenti, Cinghia Mattanza style. Sì, in effetti se hanno l'appoggio delle istituzioni è molto difficile. Sì. A questo proposito voglio menzionare una frase che ha postato una mia amica su Facebook oggi e che mi è piaciuta. Ha scritto: fiducia nello Stato non ne abbiamo, l'antifascismo è nostro e non lo deleghiamo. E credo che sia questo il modo di affrontare l'argomento. Che sì, dici? Sì, la manifestazione di ieri l'ha ribadito, è stata molto chiara, nonostante non siamo riusciti ad assaltare la sede così come era la nostra intenzione, perché il dispiegamento di polizia e il quantitativo di gas al peperoncino e CS lanciato è stata una cosa davvero che si vedeva da poco tempo in una città, sì. Soprattutto poi in una città come Cremona, che è famosa per la nebbia, quindi si sa che tutto questo fumo è ristagnato sulla città per ore e ore e l'atmosfera era davvero invivibile, non si poteva respirare, gli occhi erano costantemente rossi, lacrimavano ed era difficile. Nonostante tutto ciò, dall'inizio alla fine il corteo è stato compatto, anche se nonostante i lacrimogeni che hanno provato a disperdere un po' di persone, si è deciso di andare avanti e di provare. Ci sono stati 5-6 tentativi di arrivare nella via dove c'è la sede, tutti appunto respinti. Allora ci si è spostati e si è sanzionato delle banche, dei bancomat e anche una sede dei vigili urbani dove c'era il sindaco in quel momento, che seguiva le fasi dell'evoluzione della manifestazione. Sì, si è saltato anche una caserma dei carabinieri, insomma un bel po' di movimento. Sì, si è deciso appunto di se loro non ci facevano passare, hanno deciso di non farci passare, allora dopo se l'è presa un po' con la città, con quelli che erano i simboli di chi stava difendendo un'organizzazione che non si può difendere, rappresenta proprio il nemico di qualsiasi essere umano con le loro ideologie. Sì, sappiamo tutti, cioè non c'è neanche da parlarne troppo, soprattutto da non dargli spazio. Va bene Cosimo, noi ti ringraziamo per il resoconto che hai fatto. Purtroppo qua dobbiamo tagliare perché abbiamo dei tempi stretti e ancora abbiamo altro materiale di cui parlare nella trasmissione. Ci sentiamo presto e grazie per il tuo collegamento, ok? E poi ci sentiamo. Grazie a voi per la possibilità, per le chiacchiere scambiate. Figurati. Spero di potervi sentire presto e darvi un abbraccio, un saluto caloroso. Anche a te Cosimo, un bacio. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao. Ne abbiamo avuti giorni bui, battendoci senza fermarci mai. Stasera balla insieme a me, domani si torna a combattere. Se dentro c'è l'incendio, niente uscita di emergenza. Ora è sempre resistenza. We'll be right back. siamo tornati qui in studio dopo l'intervento di Cosimo. Ora stiamo cercando di ristabilire la comunicazione con Ciccio Villari. Nel frattempo sì, spieghiamo un secondo quello che quello di cui andremo a parlare, ed è appunto sì, il collettivo Limitazione di Reggio Calabria, che è nato tempo fa in occasione di un festival di cover band patrocinato dal comune di Reggio Calabria, a suon di soldoni. C'è stato prima un volantinaggio, poi diciamo il collettivo si è evoluto e ha cercato di organizzare altri eventi, soprattutto eventi che dessero spazio ai gruppi inediti locali, e proprio per rendere certo chiaro il concetto. È una cosa che dimentichi di dire sempre: hanno prodotto una compilation contenente 26 pezzi di giovani gruppi reggini e non giovani, che se volete potete ascoltare su internet su limitazione.bandcamp.com. esatto, era molto molto chiaro il concetto di andare contro non l'idea delle cover band, che possono avere sì una loro dignità artistica e morale per alcuni, per altri no, però ovviamente da qui ad assurgere le cover band a evento culturale dell'estate reggina e a sborsare sì 3.000 euro e spacciarlo come evento culturale, quando molte realtà locali, anche non, si sbattono da anni per fare musica inedita, questo diciamo ha fatto abbastanza arrabbiare, girare le palle, le palline di molte band locali, anche non musicisti. Ne è nato un collettivo, ne parleremo fra poco con Ciccio Villari. Intanto mettiamo un pezzo nel frattempo che tentiamo di ripristinare la connessione con Ciccio. Questo è dedicato a Samuele, detto Sasotronic. Sì, sei tu Sasotronic, perché stai in un mondo tutto tuo fatto di code programming e tecnologia. Questa è My God is the Sun, dall'ultimo album dei Queens of the Stone Age, che tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di ascoltare, l'onore di vedere dal vivo poco tempo fa. Appunto sì, My God is the Sun, Queens of the Stone Age, e ci sentiamo dopo. Ed eccoci qui, siamo ritornati sempre su Domenica Prossima. Abbiamo Ciccio Villari collegato e appunto stavamo parlando, abbiamo fatto un accenno a Limitazione. Ciao Ciccio. Buonasera a tutti, ciao. E niente, se vuoi aggiungere qualcosa, noi principalmente abbiamo accennato al fatto dell'evento del festival delle cover band patrocinato dal comune, il volantinaggio che ne è scaturito e poi però come si è evoluto il collettivo, è andato un bel po' più in là. Se ci vuoi spiegare qualcosa? Sì, in realtà era la provincia ad avere patrocinato questo, perché il comune è commissariato per mafia, quindi non è che ci abbia più da patrocinare, ecco. La fondamentale, ecco, rispetto a questo discorso delle cover band, anzi approfitto e ringrazio tutti voi per averci invitato, perché come stiamo cercando di spiegare a chiunque ci dia voce, quella delle cover band non è stato altro che una scintilla che ha fatto partire un qualcosa che, per fortuna direi, è uscita da Facebook con il solito post: ah, che schifo, non è possibile vedere una cosa del genere, non crediamo siano questi gli eventi culturali, come si fanno a destinare soldi per finanziare eventi culturali ai festival delle cover band? Ecco, invece di ascoltare o leggere e rileggere questi post giustissimi, c'è stata una sorta di pensiero comune, che è stato quello di incontriamoci e vediamo se c'è la possibilità di cominciare a lavorare, perché evidentemente se ti ritrovi a scrivere su Facebook che il tuo comunque essere contrario a questo genere di iniziativa vuol dire che hai un determinato tipo di sensibilità. Ecco, si è cercato di convogliare queste sensibilità dentro un collettivo che è il collettivo di Limitazione, e che nasce innanzitutto sulla serata stessa in termini di protesta attiva, operativa, la compilation che è stata presentata quella sera agli organizzatori della serata non voleva essere provocatoria, ma voleva essere semplicemente un dato concreto, perché ragionare per assurdo è una cosa che lasciamo fare a chi ha poco da offrire. Ragioniamo in concreto e tu non mi puoi dire: ah, ma tu davvero pensi che a Reggio ci siano queste band? Ecco, guarda, qua ce ne sono 26 e sono alcune delle sì, tante band che potrebbero esserci. Quindi la compilation nasce in questo senso. Ovviamente la questione cover muore proprio il giorno dopo il festival, perché non era, ed è una cosa che abbiamo voluto chiarire anche con tanti che hanno pensato potesse essere una questione contro le cover band. Che problema dovrei avere io con le cover band? Io dico, io come chiunque altro all'interno del collettivo, nessuno, tutti per diletto, per gioco abbiamo suonato una cover per divertirci. Il problema è nel momento in cui dei musicisti bravi, bravissimi, tecnicamente formati, addirittura gente che viene fuori dal conservatorio, deve suonare le cover dei Negramaro per cimolare due soldi. E lì no, è vero, perché poi questo è quello che ci è stato sollevato da parte di qualcuno, dice: io sono andato al conservatorio, faccio le cover, io suono i pezzi di André in maniera fantastica. Bravo, i pezzi di André. Quindi tu hai investito anni della tua vita per andare al conservatorio e fare le cover di André? Cioè, sei molto peggio di me, che so fare due accordi del cazzo e suono, cioè, Sì, mi ricordo che comunque all'inizio c'era un bel po' di scetticismo, per non parlare più appunto dell'argomento cover band, perché come hai ben detto tu è stata una scintilla, e quello che poi è nato dopo è molto molto positivo per il momento. Sì, ricordo che all'inizio magari c'erano un poco di perplessità sulla nascita del collettivo, invece sto vedendo che sta andando avanti e si è prefissato degli obiettivi ben chiari. Sì, forse la concretezza di quello che stiamo facendo, stiamo cercando di fare tutti quanti, ci sono coinvolte 22 band, 5 location in città che ci supportano e che ci danno lo spazio, ci mettono lo spazio a disposizione per poter organizzare questi concerti, che vedono di volta in volta coinvolti due dei gruppi che hanno dato adesione al collettivo, che serviranno per autofinanziare quello che è il progetto, diciamo il primo step di questo percorso, che sarà la realizzazione del festival, di un festival indipendente a fine luglio in città, cosa che credo manchi da dall'Indie Rocket forse. Esatto, comunque da altri collettivi che hanno voluto fare determinate cose in questa città e che costringono spesso anche chi è di Reggio a muoversi, ad andare fuori città, anche nei paesi della provincia. Io, mi viene in mente Lamezia Jacurzo, fuori dalla provincia di Reggio, determinate altre situazioni che in città non è possibile vedere. Lo spirito è stato assolutamente quello, coinvolgimento e pochi punti chiari. Si è cercato di ragionare su questa cosa. A tutti piacerebbe buttare sul piatto un miliardo di cose da fare. In concreto si comincia a lavorare e chiariamoci su 2-3 punti. Abbiamo un calendario che arriva fino a maggio ed è quello che abbiamo voluto cercare di fare, mantenere intanto quello che è lo spirito e lavorare di serata in serata, ma con un programma chiaro. Dopo il festival estivo vedremo come riorganizzarci per la prossima stagione, perché crediamo che questa sia soltanto la prima parte di un percorso. Ok, come stanno andando le serate fino ad ora? Il quarto appuntamento c'è stato la settimana scorsa e su 4 serate possiamo dire di avere mediamente coinvolto più di 100 persone a serata. Stiamo parlando di quasi 500-600 persone in 4 serate, più la presentazione, forse qualcosina in più. Però ecco, la questione dei numeri in una città altalenante come Reggio lascia un po' il tempo che trova, perché l'idea è quella di lasciare da parte il genere musicale, e se prima io che sono così vengo ad ascoltare questa roba, no, so già che non mi piace, ora, a parte qualche estremista che possiamo anche in parte giustificare, dice io ascolto solo cantautorato e non mi rompe di coglioni, solo grindcore. io ascolto solo grindcore e qualunque cosa sfori da quello non me ne frega un cazzo. Crediamo che ci sia veramente la possibilità di ritornare a quel discorso di prima delle sensibilità, di poter offrire una proposta che sia quanto più aperta possibile in termini di genere, anche perché ci sono tante difficoltà nel cantautorato, quante nel metal, quante nel rock and roll, che sono poi le stesse che ci sono nella musica elettronica. Quindi in fin dei conti se ci troviamo di fronte allo stesso problema, affrontiamolo insieme. Sì, infatti ho visto che appunto l'ultima serata aveva ad esempio Le Mare come ospite, anche hip hop. È una cosa abbastanza positiva questa, di coinvolgere più generi e più persone possibile, appunto senza distinzione, senza essere troppo settari. Infatti mi ricordo il primo appuntamento era stato, mi sembra, al Cartella, se non ricordo male. Sì, con il era più sul cantautorale, poi avete spaziato un bel po', e poi il programma è abbastanza vario. Non so se vuoi ricordare qualche data, magari. Io ho visto che c'è forse un primo maggio, a parte poi il festival estivo. Stiamo lavorando al primo maggio, questi sono i progetti in divenire. Si poteva dire? Sì, stiamo lavorando, l'abbiamo messo già nelle locandine, quindi vuol dire che stiamo lavorando. Dal momento in cui c'è sulla locandina vuol dire che ci stiamo lavorando seriamente. Bene, ma saranno gruppi reggini o gruppi di zone limitrofe? È in definizione il cartellone del primo maggio, perché giustamente ci piacerebbe mettere da parte, ma perché questa è una scelta collettiva, di mettere da parte ogni forma di, passatemi il termine, autoreferenzialità. Stiamo lavorando tutti, c'è un percorso, c'è un calendario comune che parte dal black metal al metal, piuttosto che al rap, all'hip hop, al rock and roll, alla musica elettronica, quindi al dub, a tutte quelle che possono essere le varie sfaccettature della musica che si fa in città. E quindi, facendo già parte di un percorso, quella che potrebbe essere una soluzione ideale è quella di continuare a coinvolgere nel percorso sempre più band, e quindi aprirci anche a quello che sono le realtà calabresi, siciliane, e speriamo italiane, e speriamo internazionali. Sì, anche perché città come Lamezia, soprattutto recentemente, e anche Messina hanno molto, diciamo, da dare. Ci sono molte formazioni e band che stanno venendo da quelle città, e sarebbe sì appunto una cosa positiva cercare di fare un poco di rete. Ma saranno coinvolti sicuramente, cioè, è chiaro che essendo partita l'idea in città, era giusto anche dimostrare che con una parte dei tanti musicisti che lavorano in città si può organizzare un'intera stagione. Immaginarsi a coinvolgere tutti i musicisti della città o dei paesi limitrofi o delle zone limitrofe, quindi sarebbe ancora più importante quello che potrebbe essere una proposta originale e non di mero intrattenimento, che ci può stare, figuriamoci. Ripeto, non c'è niente contro una cover band, ti passi la serata, ti diverti e che. Però se parliamo di proposta culturale sarebbe corretto specificare che le parole hanno un loro significato, e quindi proposta culturale no. Perfetto. Potrebbe essere altro, ecco. A voglia. Sì, abbiamo qui deciso, diciamo, in maniera molto estemporanea, volevamo passare un pezzo della compilation. E poi abbiamo detto, per non fare appunto favoritismi a nessuno, abbiamo deciso di mandarne uno ogni puntata di domenica prossima, quindi ne manderemo uno da oggi. E avranno appunto tutte 26 le band uno spazio in ogni puntata. Sempre ammesso che riusciamo a fare 26 puntate se non moriamo prima. E niente, tutti i brani e mandateli a prescindere. Esatto. Va bene, grazie tante Ciccio. Noi continuiamo con la trasmissione e ci sentiamo presto. Assolutamente sì, grazie. La prossima serata mi permetto di sottolineare che è giorno 5 febbraio ed è al Random, suoneranno le Drunklit con gli All My Friends Are Dead al Random Music Club il 5, giovedì 5 febbraio. Grandi, fate i bravi. Grazie a voi. Ciao Ciccio, grazie, ciao. Ciao. Now. Questi erano i Queens of the Stone Age con i Caius. E a questo punto, dopo aver parlato con Ciccio del grande progetto Limitazione, abbiamo pensato di iniziare a mettere da adesso il primo pezzo. Ne abbiamo scelto uno a caso, che è dei Del Negro, che fanno mat rock più o meno. E il pezzo si chiama Emicrania. Sono un gruppo strumentale. Il pezzo si chiama Emicrania. E direi lo zio Luigi che suonava con Davide. E credo possa essere un pezzo abbastanza rappresentativo della qualità dei musicisti di Reggio Calabria. Dobbiamo fare 26 puntate ora, lo sai. Sì, lo so. Ci siamo imbarcati. No, lo faremo a meno di crolli dello studio. Speriamo di sì. Lo studio in via delle Zanzaralle 69. Ibernazione. O ibernazione istantanea. Okay. Loro sono i Del Negro con Emicrania e ci sentiamo dopo. Dal mat rock del negro passiamo ad un altro genere, passiamo al reggae roots, personalmente posso dirlo, uno dei miei artisti preferiti reggae è Jacob Miller, ben famoso per la sua enorme panza, fu scomparso un bel po' di tempo fa. Pezzo più rappresentativo, Healing of the Nation, parla appunto, si scaglia contro le multinazionali del tabacco, e invece supporta ben altre sostanze. Appunto Jacob Miller con il suo storico gruppo, gli Inner Circle, uno dei gruppi live reggae più esplosivi veramente di sempre, se Bob Marley era il dio del reggae, lui sicuramente live aveva proprio una carica, era completamente fuori di testa. Vi invito a vedere qualche video su YouTube di qualche live di Jacob Miller. Questa è Healing of the Nation e ci sentiamo dopo. A word with you. Only take a minute, sir. So don't you screw. You no fight against the rum, man. You no fight against the wine. You no fight against the cigarette smoking. Yet you know, this thing give cancer. Yet you know, this thing give cancer. Rasta man know the truth. So you can't fool the youth. Rasta man know the truth. So you can't fool the youth. What was in ci ritornati qua in collegamento. Il prossimo pezzo che voglio passare riguarda una storiella simpatica che ho scoperto l'altro giorno, che riguarda Londra. Ormai lontano 1994, sono passati 20 anni ormai, quando i rave illegali erano tutt'altra cosa. Sì. In Inghilterra qui i rave spopolavano. Londra è piena di zone post-industriali con fabbriche abbandonate, perché a un certo punto tutte le fabbriche si sono spostate, sì, in Cina, hanno lasciato questi mega edifici vuoti che sono subito stati invasi dai squatter, dai raver. Sì, diciamo che qui la cultura in Inghilterra, la cultura della, la cultura rave, appunto, e delle TAZ, delle zone temporanee occupate, diciamo, si è sviluppata temporaneamente autonoma. Si è sviluppata molto bene, come direbbe qualcheduno. Praticamente diciamo in che America, noi ne sappiamo anche qualcosa, voglio dire, siamo. Non si può dire, non si poteva dire. In America c'è stato, diciamo, il grande sviluppo della musica techno e house, la techno di Detroit e la house di Chicago, però solo musicalmente. Qui in Inghilterra poi tutto il movimento ha assunto dei connotati culturali ed è nato il vero e proprio clubbing, che però nelle prime sue manifestazioni era più che altro sotto cavalcavia, ponti, fabbriche abbandonate, quindi proprio la cultura di queste TAZ, di queste zone temporaneamente autonome, si è sviluppata su vasta scala. Finché il Parlamento inglese nel 1994 non ha deciso di bandire i rave, dovevano porre fine a questo fenomeno che ormai spopolava in molto tutti i modi. Molto famosa il rave di Castle Morton, dove ci sono state molte molestie della polizia, anche ai DJ, la famosa crew, gli Spiral Tribe, con 69DBX, In The Mix, Crystal Distortion, questi sono i loro nomi ora da solisti. C'hanno una bella età, visto che nel 94 gli davano dentro, che gli davano. E sono stati, appunto, cos'è la cosa? Abbiamo avuto un imprevisto. Vabbè, torniamo a raccontare la storia. No, praticamente allora, c'è stata una dura repressione da parte della polizia che ha... che si è, appunto, scagliata contro tutti i partecipanti di quel rave a Castle Morton. È stata una legge molto controversa quella che ne è seguita, il Criminal Justice and Public Order Act del 94. Che tu volevi parlare sì, ora lo racconto. Allora, si trattava di proibire il rave, ma si poneva il problema di come legalmente porre questa questione del rave, come definirlo. Quindi immaginati i parrucconi a Westminster nel Parlamento inglese che cercano di definire un rave, di scriverlo in parole per metterlo dentro una legge. Fatto sta che alla fine, all'interno di questa legge, un rave viene definito come un assembramento di persone dove viene eseguita della musica con una successione di battiti ripetitivi. Secondo la quale questi grandi scienziati se ne sono venuti con questa definizione di molto, molto larga, molto, secondo la quale anche una tarantella a Cardeto potrebbe essere proibita in assenza di un musicologo che ne attesti la non ripetitività. Esattamente. E quindi in protesta a questa legge, Oteker, che è un artista, è un duetto di artisti che fanno elettronica e IDM, sono tra i più famosi insieme a Aphex Twin, fece uscire questo EP che si chiama Anti, è del 1994, e posero un adesivo che era quasi come un sigillo sulla copertina di questo EP, che raccomandava... insomma, sto leggendo su Wikipedia, che insomma dichiarava la natura non ripetitiva dei battiti che si sarebbero potuti ascoltare, e conteneva un avviso ai DJ che avrebbero messo questo EP di stare sempre per tutto il tempo con un avvocato e con un musicologo durante la performance, per poter dimostrare alla polizia che non si trattava di musica con battiti ripetitivi. Cioè, il musicologo poi aveva un DJ set tutto suo a fianco del DJ, aveva anche lui un suo spazio poi nella festa. E andiamo ad ascoltarcelo adesso, questo è Flutter di Oteker, buon ascolto. Thank you. Abbiamo tagliato il pezzo per ovvi motivi, poteva andare all'infinito. Era effettivamente un po' ripetitivo. Un po' ripetitivo. Lo mettiamo di nuovo. Ripetiamo ripetitivo. No, stiamo scherzando. Sì, abbiamo deciso appunto di mettere questo pezzo abbastanza doom, abbastanza pesante. No, non sto dicendo che era ripetitivo, assolutamente. Ho anche un musicologo qui al mio fianco, Matteo, se vuole appunto certificare la non ripetitività del pezzo. La non ripetitività del pezzo, assolutamente. Esatto. Possiamo certificare la non ripetitività del pezzo. Possiamo certificare la non ripetitività, se ce la direte di nuovo. In loop. Va bene, vi salutiamo. Ci vediamo quando? Martedì prossimo. Ci sentiamo. La prossima puntata. Venerdì prossimo. Come? Non è di domenica. Ah, è vero. Domenica prossima, ovviamente, abbiamo un blog. Da poco tempo. Adesso finalmente c'è il blog. A breve ci sarà. Matteo ci ha rotto un po' le palle. Ci sarà anche il bannerino. Ha minacciato di chiudere la trasmissione per la non aderenza alle leggi di transizione di fase. Tra l'altro, non sono più scritte perché il sito non è più presente, però sono. Ben vive, ce le ricordiamo. Fai 10 paginette ripetute di. Fai 10 paginette non ripetitive. Di ripetizione. E, appunto, sì, un blog dove carichiamo i nostri podcast. E, abbiamo anche la pagina Facebook. Siamo molto social. Sì, ecco, diciamo che a mano speriamo e vogliamo che la transizione di fase riprenda. Si ripeta. Si riprenda. Ed ecco, sì, piano piano farai una trasmissione. Questo vuole dire che farai una trasmissione. Probabilmente sì, ci sto pensando. Dovrei bere un altro po' per farmi venire un'idea. Però sì, berrò un altro po'. Quindi, andremo al pub. Quindi dopo. Mi verrà l'idea anche a me. Quindi sì, si spera di riprendere. Avremo anche di nuovo un sito, credo. Sì? Ci sarà la chat. Si spera, questo è una dobbiamo parte chiederlo fondamentale ai nostri tecnici per la radio, per socializzare con tutti. E ricordiamo che tutti possono fare una trasmissione, tranne Matteo, tranne me. Sì, abbiamo il blog, abbiamo patate pasta gialla, abbiamo tutto quello che volete. Ayupira, Ayupuma. Basta. Sì, appunto, ci vediamo domenica prossima. Cercheremo domenica di prossima. Ci sentiamo, è vero. Ogni volta cado in questo loop di Mino Reitano con Aleandro Baldi. L'hai vista la partita? sì, ci sentiamo domenica prossima, sempre su questo link che è www.org. No, ovviamente potete andare sulla nostra pagina Facebook per il link, oppure ascoltarla in podcast quando ve pare. Ok. No, vogliamo salutiamo anche tutti, nel senso qui siamo una bella squadra. Io salutiamo. Matteo, tu che sei Jessica. Poi abbiamo Papa Francesco, non lo sapevamo. Chantal. Poi abbiamo Marilu. Poi c'è. E anche Giuliana Sgrena qui nei nostri studi. Ci sentiamo domenica prossima. Andiamo al bar. Ora, e questa è Electric Funeral dei Black Sabbath, un gruppo noto appunto nell'ambiente ungherese. Ma non hai fatto le dediche? Sì, avevo un sacco di dediche, però abbiamo stretto con la trasmissione. Avevo scelto un pezzo per ognuno di voi, amori miei, ma niente. La prossima volta, li teniamo per la prossima volta. A me l'ha fatto, tanto. Esatto. Ma chi era Lou Reed? Ciao. Ma che cazzo è Lou Reed? Grazie. A domenica prossima. Ciao. Ciao Fefo! Un saluto in diretta. Los Angeles, California. È un forte e caloroso saluto da Radio Carola.